Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Chi decide di investire in borsa deve farlo, come raccomandiamo sempre, con grande cautela. Tutti sanno, perché questo è un fenomeno largamente studiato dalla finanza comportamentale, che molte scelte sono influenzate dalle tendenze generali. Se crescono per esempio i mercati emergenti, tutti vogliono cogliere quell'opportunità. Se è il momento della tecnologia, come è successo a cavallo fra la fine degli anni 90 e il 2000, tutti corrono, fidandosi della parola degli amici, a comprare titoli high tech. Diciamo che non è molto diffusa la buona pratica di studiare i bilanci delle società prima di investire sulle società quotate. Eppure i bilanci sono pubblici, queste società comunicano al mercato perché sono obbligate a farlo, e ci sono tanti modi per informarsi sulle aziende. La stampa specializzata è uno di questi, e poi oggi c'è anche una miriade di siti web di informazione finanziaria. Oggi ve ne vogliamo segnalare uno, perché qui si parla di società quotate in modo un po' originale. Il sito è, neanche a dirlo, www.societaquotate.it. Perché abbiamo scelto di parlarvene? Perché questo sito, oltre a divulgare notizie sulle società quotate sulla borsa italiana, sta realizzando e pubblicando una serie di video e interviste ai protagonisti della finanza italiana, con l'obiettivo di far conoscere anche gli aspetti più originali della loro personalità. Noi oggi parliamo di tutto questo con l'editore fondatore del sito, Gianfranco Caradonna. Gianfranco, benvenuto a Salva Danaio. Grazie a te. Allora, prima di tutto sveliamo il primo mistero legato alle interviste ai personaggi della finanza che avete realizzato, interviste che avete affidato non ad un grande nome del giornalismo finanziario, ma a tutt'altra persona. Assolutamente sì, chi li realizza è un comico di Zelig, anzi uno dei più famosi comici di Zelig, è Giovanni Vernia, che tutti conoscono come Johnny Grove, il mitico di Ti stimo fratello, preso, quello della House, quello con i pantaloni muccati, per dirla tutti. Allora, come vi è venuta in mente questa idea di associare finanza all'umorismo? Sì, so che qualche personaggio economico, magari abbiamo visto anche un po' quello che è successo negli ultimi tempi a Dominique Strauss-Kahn, del comico e dell'umoristico, qualche vicenda personale, però qui in realtà l'obiettivo è stato diverso. Assolutamente sì, ma era un po' per fare qualcosa anche di diverso rispetto a tutti. Nel senso, come dicevi prima tu, ci sono tantissimi siti che si occupano di finanza. E allora cercavamo anche di differenziarci un po', e l'idea è stata proprio di unire umorismo e finanza, cosa che ad oggi non faceva nessuno. Non esisteva nessuna sperimentazione di questo tipo. No. Quali sono i capitani della finanza e dell'industria che si sono prestati a questo gioco, tra virgolette? Perché poi alla fine in queste interviste si raccontano anche gli aspetti proprio veri e concreti e dell'attività professionale, ma anche della vita personale. Assolutamente sì. Allora, il primo è stato Marco Palmieri, di Pquadro, a cui devo un grazie, perché prestarsi per primo non era semplice. Esatto. Poi è seguito Paolo Pininfarina, poi Giuseppe Stefanel, Fabio Cerchiai, presidente di Ania e di Atlantia, poi c'è stato Ennio Doris, il prossimo è Alessandro Benetton, e poi ci sarà Amplifon Moschetti di Amplifon, poi Boglione di Basicnet e poi altri. Insomma, comunque ormai la strada è spianata, quindi lo sperimento è riuscito e può essere sicuramente portato avanti con successo. Allora, cominciamo a sentire qualche intervista per capire quali aspetti vi hanno interessato di più di queste persone. Cominciamo con il numero uno, il patrone, il fondatore del colosso del risparmio gestito di Banca Mediolanum, Ennio Doris. Allora, io volevo chiedere, appunto, vedendo tutto questo, questo impero, io mi sono chiesto, ma come si fa a fondare una banca? Non è facile, no? Guardi, io sono una persona estremamente fortunata. Perché? Ho incominciato la mia attività come impiegato di banca e volevo far carriera, e quindi là ho conosciuto il mondo bancario. Poi ho fatto una brevissima esperienza come manager, come direttore generale di una piccola azienda metalmeccanica. Dopo un anno e mezzo, 8 anni in banca, un anno e mezzo su questa azienda. Dopo un anno e mezzo che ero in questa azienda, mi è nato il pallino di fare l'imprenditore. Come? Perché un giorno sono salito sulla macchina del mio datore di lavoro, che era un grande imprenditore del Veneto, e io avevo la 8,50, 120 mila chilometri, tappetini di plastica, rumorosa dopo tanti chilometri. E tu eri un povero, diciamo. Non ero, è un'offesa per i poveri, perché avevo un buon stipendio e la mia macchina, e quindi diciamo che avevo la mia vita ed ero soddisfatto. Poi direttore generale, avevo fatto carriera. Scendendo la mia macchina e salendo sulla sua, che era un Citroen Palace, con i tappetini diciamo, che era una mochetta alta quasi una spanna. Allora, che è quello che c'è qua nel museo. Che è quella là, okay. Proprio quella là. Sedendomi dietro nel posto posteriore, i piedi sono affondati nella mochetta. Allora io ho fatto il confronto con i miei tappetini di plastica. Mm-hmm. Ho alzato la testa, lui nel frattempo aveva messo in moto la macchina, sospensioni idrauliche, si è alzata e si è avviata in silenzio. Allora io ho pensato, tutto questo che ti racconto, nell'arco di un secondo, proprio una successione di pensieri, ho pensato che bella macchina, è la macchina che vorrei avere anch'io, ho alzato la testa dal tappetino e lui era seduto davanti, nel Citroen di allora i sedili davanti erano proprio delle poltrone, dietro c'era un divanetto più basso perché c'era il tettuccio spiovente e lui sembrava in trono, allora io ho guardato che bella macchina, la macchina vorrei avere anch'io, lui guida la mia macchina, lui guida la mia vita. Allora ho pensato, io voglio essere al volante della mia vita. Come? Facendo quello che fa lui, l'imprenditore. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Gianfranco Caradonna, fondatore del sito www.societaquotate.it, che ha realizzato queste interviste ai grandi personaggi della finanza italiana. Abbiamo appena sentito Ennio Doris, un passato molto modesto, quello di Doris modesto se considerato il patrimonio attuale che questo uomo d'affari ha, come accaduto anche agli altri personaggi che avete intervistato, Gianfranco? Sì, per esempio Marco Palmieri, anche lui ha iniziato dal nulla la sua azienda, lui prima Piquadro, esatto, proprio per cui l'ha fondata lui completamente, perché non un passato di famiglia. Altri invece no, sono i discendenti di famiglie storiche, per esempio Giuseppe Stefanel, che però ci racconta anche lui nell'intervista la suo inizio, i dissapori fra il padre e lui, che avevano due idee diverse di business, perché il padre aveva fondato l'azienda ma lui la vedeva in modo diverso, per cui ci racconta anche questo. E poi Paolo Pirinfarina, che ci racconta anche della sua infanzia. Gianfranco, gli utenti che accedono al vostro sito a caccia di informazioni finanziarie sulle società quotate sono molto interessati anche a questi aspetti, al lato umano, al lato della personalità degli uomini della finanza? Che tipo di accoglimento avete avuto della vostra iniziativa? Direi proprio di sì, soprattutto accoglimento, come sto parlando stamattina. No, direi proprio di sì, devo dire che l'iniziativa ha avuto tantissimo successo, anche i contatti, devo dire, del sito sono aumentati tantissimo, proprio perché c'è curiosità comunque di vedere questi personaggi in un modo diverso. Tutti sono abituati a queste interviste formali dove dicono sempre le stesse cose. Invece, grazie anche alle domande un po' particolari, a volte un po' divertenti, di Giovanni, esce un personaggio diverso, per cui più umano, ti fa conoscere che in fondo dietro un manager, a volte considerato inarrivabile, c'è comunque una persona. Se poi si comincerà a spargere la voce che una volta fatta l'intervista il titolo in borsa cresce, come è accaduto, qua mi sa che avrai la coda per farsi intervistare dal vostro sito. È vero che è successo, è vero, così? È vero, assolutamente sì. Ogni volta che registriamo l'intervista, il giorno dopo il titolo sale, per cui potrei fare anche insider, ma non lo faccio. Non lo facciamo, per carità, perché sennò qua vado in galera anche io. Manette, in due istanti, adesso sentiamo invece quello che ha raccontato Paolo Pininfarina, Giovanni Vernia. Io ho una curiosità, cioè io ho un mio pensiero su determinate cose che succedono in Europa e vorrei sapere il tuo pensiero più autorevole del mio. Allora, io vedo cose di una gravità assoluta e tante le vediamo spesso quando andiamo nel nord Europa. Noi assistiamo a queste Ferrari che voi disegnate con tanta cura, con tanto amore, con tanta dedizione al lavoro per creare una cosa bella, di stile. E poi vediamo queste Ferrari che costano anche dei bei soldini, diciamo. Arrivano su in Germania, in Austria, in mano a questi austriaci che comunque con la Sacher, noi sappiamo che con la Sacher si sono fatti anche un sacco di soldi, si comprano le Ferrari e poi le trasformano, cioè gli abbassano l'assetto, perché la Ferrari non ha un assetto alto, va abbassato giustamente, poi gli cambiano appunto, la elaborano, gli cambiano le gomme, gli mettono le gomme più larghe, perché la Ferrari ce l'ha abbastanza strette, vanno allargate le gomme, no? Poi gli mettono un bel volante di peluche e gli usano questi colori carini, tipo il fucsia, quei brillantini. E allora io dico, ma tu, dopo tutto l'impegno che ci mettete, ma cosa gli diresti a sta gente? Ma io ogni tanto sento una critica che talvolta mi viene mossa, no? Forse questo stile Pininfarina è troppo elegante. No, è troppo bello. Ecco, io sono felice di una critica così, perché penso che l'eleganza oggi come oggi ti distingue da questa volgarità dilagante che c'è. Quindi cerchiamo di fare delle cose essenziali, cerchiamo di fare delle cose eleganti, e lì sta secondo me il segreto della fuoriserie, il segreto dello stile, il segreto dell'esclusività. Quindi c'è tanta volgarità, ecco, anche ai saloni dell'auto, al di là di quello che può essere bello o meno bello, che giudizio è al limite soggettivo, è proprio il parametro eleganza. Ecco, quando dopo il giro ritorno nel mio stand, tiro un respiro di sollievo. Un bicchiere d'acqua fresca. Se bevo un bicchiere d'acqua, oh, mamma mia, mi sento che noi siamo eleganti. Gianfranco, cara donna, che cos'altro vi racconta Paolo Pininfarina nella sua intervista? Noi ovviamente per ragioni di tempo dobbiamo proporre solamente degli stralci, sì, molto brevi, ma nella vita personale non penserà sempre solo al design delle auto? No, infatti suona la batteria in un gruppo e fa musica degli anni 70-80, l'unica musica per lui, è proprio già un gruppo che si chiama Cheers. Ciliegie, perché la zona dove abitano è quella del Ciliegie. Sempre rosso lui deve viaggiare, non c'è verde, con la Ferrari naturalmente. Disegnata da lui la batteria naturalmente. Certo. E giardinaggio, fa anche giardinaggio. Oh, incredibile. Pazzesco. Quale tra tutti quelli che avete intervistato, quale a te personalmente il personaggio che ti ha colpito di più? È imbarazzante dirlo, ti mette in difficoltà. Esatto. No, tutti devo dire che hanno avuto una particolarità abbastanza... Palmieri per esempio si è messo in gioco col fatto del, perché ognuno ha la prova del CEO alla fine per essere dichiarato se è veramente qualcuno, se è veramente titolo... l'amministratore delegato, esatto, corretto e giusto, esatto, per la sua azienda. Che domande fa Giovanni a lui? Gli ha dato a Palmieri di Piquadro, gli ha dato due portafogli, doveva capire qual era di Piquadro e qual era no, se, con gli occhi chiusi ce l'ha fatta. Doris invece che tipo di domande sono state fatte? Doris si è partito chiedendo se voleva un'intervista al 3% lordo, al 2% netto, e lui ha detto che netto che conta, ovviamente. Certo, perché è più trasparente, ha detto. Esatto, infatti. Esatto. Benissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, seconda parte, oggi puntata speciale perché stiamo conoscendo l'attività di un sito di informazione finanziaria che si chiama www.societaquotate.it. Qui ci sono tante informazioni, naturalmente per chi vuole investire in borsa si può documentare al meglio su tutta l'attività delle società quotate, ma soprattutto si possono conoscere anche le personalità di chi guida queste aziende attraverso una serie di interviste che sono state organizzate, pubblicate naturalmente, realizzate da un comico di Zelig, Giovanni Verdi. A noi stamattina abbiamo con noi per raccontarci sia lo spirito di questa iniziativa ma anche tutta l'attività del sito Gianfranco Caradonna, che ne è l'editore. Allora, adesso sentiremo anche altri stralci di altri personaggi della finanza, le cui interviste sono già pubblicate per l'appunto dal sito, ma raccontiamo un po' quali consigli e quali informazioni trovano i piccoli investitori, gli investitori appunto sul vostro sito. Come è nato il vostro sito, Gianfranco? Ah, è nato nel 1999, cioè il secolo scorso, perché quando all'inizio c'erano ancora le lire, e non so se ti ricordi che i siti internet, i domini potevano essere piccoli, non poteva essere esteso, infatti era SocQuot ai tempi, perché non poteva essere società quotate, adesso il dominio è societaquotate.it. Per cui, no, questo aspetto non me lo ricordavo, che i domini dovessero essere così brevi. Erano brevi, per cui mettemmo proprio SocQuot, che era l'abbreviazione, poi dopo siamo passati a società quotate. E l'idea era appunto di far conoscere meglio gli aspetti finanziari delle società quotate, facendo proprio analisi di bilancio, per cui analizzando bilanci trimestrali, a quei tempi non c'erano ancora i trimestrali, poi sono venute semestrali, trimestrali, andando agli incontri con gli analisti, riportando quello che veniva detto negli incontri con gli analisti, per cui un'analisi concreta proprio dei dati. In più commenti, perché comunque noi facciamo la rassegna stampa tutti i giorni di tutti i quotidiani, andiamo alla presentazione dei piani industriali, per cui proprio un'analisi sui dati. Certo. E sulla corporate governance, che a quei tempi era agli albori, adesso è di moda. Ah, ecco, era una cosa seria quella volta, adesso non l'è più. Volevi anche arrivare a dire questo, perché ti vedo una faccia un po' strana. No, detto questo, non è vero, è una cosa, no, ancora un aspetto molto importante. Anzi, però... no, in teoria è più importante. Infatti, però siccome noi oggi parliamo di umorismo, magari questi aspetti seri li lasciamo ai tuoi giornalisti, ai tuoi analisti appunto, che animano l'attività del sito. Sentiamo adesso invece che cosa ha raccontato a Giovanni Vernia Giuseppe Stefanelli. Nell'80 abbiamo aperto il primo negozio a Siena. Ma come mai a Siena? Avevi la fidanzata lì? Sì, avevo fidanzata. Sì, a Siena. No, io ho detto a Siena, no, no, ma perché no, Siena? A Siena c'è un motivo, perché tutti dicono chissà, avrei fatto degli studi di marketing, studi di mercato, e invece non è niente di vero. Avevi la fidanzata? No, c'era un cliente che ha deciso di investire e rischiare su un personaggio come il sottoscritto, dice qua, vabbè, proviamo, apriamo il negozio, e siamo partiti, da lì è stato... bel successo. Beh, insomma. Poi il primo negozio estero invece? a Parigi nell'82. Parigi. Ma perché Parigi? È perché noi la moda a quei tempi, cioè Parigi era Parigi, era la sede culturale dell'alta moda, bisognava essere a Parigi, se volevi avere un nome internazionale, la Francia era per definizione la culla, diciamo, di determinate firme, pensiamo di Saint Laurent, Chanel, Dior. Quindi molti francesi pensano appunto che sì, Stefano sia sì, francese, poi vi sente parlare. No, ma mi sembra. È più veneto, è vero. Però poi è un'altra cosa che secondo me era importante, perché se crei un nome di fantasia poi non sai mai come pronunciarlo. Invece abbiamo visto e scoperto che alla fine il nome si pronuncia in tutte le lingue abbastanza bene. Bene. Tu hai due figli. Sì. Carlo e Eleonora. Allora, è vero che quando sono nati tu volevi chiamarli small e medium, tua moglie non ti voleva lasciare? Sì, no, anche XL. Come sono venuti? Sono venuti bene. E allora, invece, anno storico è il 1987, perché? C'è la quotazione della società. Sei preparatissimo, eppure ti ho mandato tutte le domande false, come hai fatto? No, lì mi ricordo perfettamente. Perché mi ricordo perché siamo figli del famoso Black Monday. Che è famosissimo il Black Monday. Che è stato nell'80. No, lo conosciamo tutti. Aspetta, scusate, conoscete il Black Monday? C'è una che ha detto su qua è scemo. Una cliente che avete perso drammaticamente. Sì. No, nell'87 mi ricordo quando abbiamo deciso la quotazione. Cioè lui è Giuseppe Stefano, non so se mi spiego. Giuseppe Stefano è il capo di tutta la baracca qua, insomma. E mi ricordo che le richieste erano altissime. E noi abbiamo quotato la società il venerdì. Poi lunedì, che di solito il venerdì non si fa mai. Ma il venerdì si vede, perché c'era una sensazione così di anticipiamo, vediamo di quotare la società. Quotiamo la società, richieste infinite, 20 volte l'offerta, queste cose qua. Poi lunedì c'è stato il crollo delle borse, il famoso Black Monday, lunedì nero. Tutti dicevano, hai quotato la società, tu lo sapevi che c'era il crollo, tu lo sapevi, tutti volevano andare indietro i titoli. Allora, ci ha raccontato anche di una IPO sfortunata, un po' come quelle che accompagnano, non tutte, quelle che si stanno facendo in questo momento, le nuove quotazioni, non è successo a LinkedIn negli Stati Uniti, qua in Italia annaspiamo un po' di più. Una bella storia anche quella di Giuseppe Stefanel. Peraltro a volte questi personaggi hanno, abbiamo avuto modo di appurarla adesso, una modestia, una semplicità nel linguaggio, sembra quasi a volte che non siano per niente consapevoli degli imperi che guidano. Ma assolutamente Gianfranco, sì, devo dire questo, quello che esce dalle interviste, per questo anche per loro sono positive queste interviste, perché fanno vedere che in realtà sono delle persone, tra virgolette, normali, voglio dire, con tutti i loro limiti, non sono gasati o cosa. Oltretutto lì era bellino perché era nel negozio della Stefanel, perché tutti i commenti che Giovanni ha fatto, che vedrete si vedono nella video intervista, era proprio con i clienti, perché diceva ai clienti guardate che questa è Stefanel. Infatti non pensavano i clienti, neanche ci credevano, no, insomma, infatti, che potesse essere così disponibile anche nell'approccio con il pubblico, con i loro clienti. Allora direi di andare avanti, anche visto che per la chiusura di questo secondo blocco ci mancano pochi minuti, di sentirci anche una quarta parte intervista, quella ad un personaggio già più volte citato nel corso di questa prima parte della trasmissione, che è quello di Marco Palmieri di Pquadro, quello che ha dovuto riconoscere alla fine dell'intervista tra due portafogli quale fosse il suo. Sentiamolo e poi continuiamo la nostra chiacchierata con Gianfranco Caradonna, fondatore del sito societàquotate.it. Pquadro, innanzitutto Pquadro, cosa, perché Pquadro? Da dove deriva il termine? Noi le borse Pquadro tutti le conosciamo, cioè ogni aeroporto ha un negozio di Pquadro dove chiunque di noi ha lasciato, diciamo, per la gioia di Marco, ha lasciato queste 400-500 euro per un portafoglio. Però voglio dire, io quando lessi Pquadro immaginavo P al quadrato, quindi prezzo al quadrato, invece Palmieri Pelletteria, P per P al quadrato. Ah, Palmieri Pelletteria. Tu sei il CEO and Chairman, quindi non è un cartone animato, spieghiamo alle persone normali cosa significa CEO and Chairman? Amministratore delegato e presidente? Sì, no, però CEO, perché poi noi sappiamo che c'è il CEO e c'è anche il CIO. Chief Information Officer. Ah, ho capito. Perché è l'information technology. Vedi? Ma io sono un ingegnere, quindi l'ho studiato. Ah, ok. Ma no, io infatti mi immaginavo quando nei vostri uffici sul lato porta c'è scritto CEO, sull'altra c'è scritto CEO, e quando vi incrociate nei corridoi. Ciao CEO, ciao CEO! Tu sei sia l'azionista di maggioranza che il, appunto, quindi che il top manager di P-Quadro. Quindi cosa ti diverte fare di più? Soprattutto detto da un ligure, diciamo, il divertimento è direttamente proporzionale al guadagno, quindi beh, non sempre, comunque se stanno insieme tanto meglio. Ragazzi, io ho letto, tra l'altro c'è stata una classifica, voi avete letto, c'è una classifica dei 1000 uomini più ricchi del mondo e attenzione signori, ve lo dico qua in anteprima, lui non c'è, quindi... Scherziamo, Marco. Mi piace... Marco, scherziamo. No, è vero, è verissimo, purtroppo. Ma no, mi piace essenzialmente fare i prodotti. Ok, sì. Questa è la cosa che mi appassiona di più. Sono nato facendo dei prodotti, immaginandomi cose materiche, fisiche, e poi pian pianino ho scoperto che i prodotti si vendono anche raccontandoli. Raccontando niente di più e niente di meno della passione che ci mettiamo noi per farli. Allora, Gianfranco, cara donna, in Veneto peraltro CEO vuol dire bambino. È vero, ce l'ha detto proprio Alessandro Benetton nell'intervista, fa CEO poi vuol dire bambino. Ecco, certo, infatti. No, stavo pensando un po' sempre alle personalità degli uomini di industria e di finanza che avete intervistato e questa grande umanità che viene fuori dalle interviste. Quanto conta essere, come dire, anche umanamente interessanti nei confronti della comunità finanziaria? Un aspetto che secondo te è rilevante dà il contributo al valore dell'azione? Ovviamente, se riesco a dare il contributo al valore dell'azione, non so, che sia importante, sì, perché comunque le aziende sono fatte di persone. Secondo me sono le persone che comunque fanno la differenza in azienda o meno, non sono né leggi, le regole, sono le persone. Per cui conoscere meglio le persone ti aiuta a capire anche la filosofia dell'azienda che c'è dietro la persona. E infatti. Allora, andando ancora a curiosare sul vostro sito, visto che c'è un link dove è possibile trovare delle news umoristiche, le humoristic news, perché in finanza non mancano, Gianfranco? È vero, no, ma queste sono delle piccole notizioni inventate in realtà di noi. Ah, ecco. Assolutamente, no, sono delle vignette... Non è che fate qualche turbativa di mercato, no, magari... No. Assolutamente no, sono delle... diciamo notiziole simpatiche, delle barzellette fatte a notizia, create apposta da noi sulla finanza. Ecco, senti, ma chi è l'utente che viene a cercare notizie anche un po' originali sul vostro sito? Perché voglio dire, noi ci immaginiamo che la persona che investe in borsa sia comunque un po' un topolino da biblioteca, quello con gli occhiali che sta sempre lì a controllare tutti i numeretti, ma non tanto quelli dei bilanci delle società quanto quelli del proprio portafoglio per vedere se cresce nel tempo o meno. Chi è incuriosito anche dal dietro le quinte delle aziende quotate? Ah, secondo me no, visto poi come è cresciuto il trading online, c'è tanta gente, anche giovani, che sono interessati a conoscere di più le aziende su cui vogliono investire. Per cui no, sono tanti giovani che devo dire sono seguaci, fra virgolette, della nostra testata, e in più anche analisti, devo dire, vengono a trovare, perché noi trattiamo quasi sempre le small cap, cioè le aziende più piccola capitalizzazione. Esatto, magari curate meno dai grandi testate e dalle grandi società, per cui noi ci dedichiamo di più a quelle dove è più difficile trovare informazione. Allora, un'ultima domanda prima di salutarci per questo secondo blocco, poi andremo al terzo della nostra trasmissione. Sono accessibili facilmente questi personaggi per essere intervistati secondo le modalità di Giovanni Vernia? I personaggi sì, devo dire, litigo un po' di più con gli uffici stampa. Con gli uffici stampa che mettono un po' più bastoni tra le ruote. Ed eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte di Salvadanaio. Questa mattina ci fa compagnia Gianfranco Caradonna, fondatore ed editore del sito www.societaquotate.it. Si parla di aziende quotate in borsa, naturalmente tutte le notizie che le riguardano, ma soprattutto per vivacizzare un po' anche il tema finanziario, che qualche volta è un po' pesante, un po' triste. Questo sito ha intervistato tutta una serie di personaggi numeri uno delle grandi società quotate, assegnando queste interviste a Giovanni Vernia, comico, molto famoso della scuderia di Zelig, proprio per in qualche maniera far emergere i lati umani più interessanti delle personalità di queste figure. Adesso ci manca ancora un'intervista da sentire. Nella prima parte abbiamo ascoltato Ennio Doris, Paolo Pininfarina, Giuseppe Stefanel, Marco Palmieri di P4, e le personalità appunto sono tante ed interessanti. Chi vorresti intervistare, Gianfranco, cara donna, e su chi hai messo gli occhi e fai un po' di fatica ad arrivare? Perché prima dicevamo anche che qualche volta magari questi personaggi si lascerebbero intervistare in maniera così allegra molto facilmente, gli staff qualche sì, volta sono un po' riluttanti a lasciarli fare. Ma il mio ideale sarebbe trovare una donna da intervistare, perché purtroppo... Tu hai scandagliato le società quotate e non ci sono numeri uno. Non ci sono, o chi c'è in questo momento in altre faccendate, ecco. Perché non ci sono numeri uno facilmente... rintracciabili nella borsa, no? Magari ci sono, ecco, le figlie di tanti capitani di industria e di finanza, che però sono un po' più dietro le quinte, un po' più nell'ombra, e non si lasciano appunto molto, non si mettono molto a disposizione anche della comunità giornalistica, lasciano fare ancora a papà. Però questo cambio generazionale ci sarà prima o poi. Spero di esserci. Sì, infatti. No, un'altra cosa molto divertente che Gianfranco Caradonna ha fatto quando c'erano i mondiali di calcio, ha proprio compilato, formato la formazione della nazionale della finanza. Adesso, senza dire tutta quanta la formazione, però in porta c'era un signor personaggio che è stato davvero per decenni inattaccabile, almeno nel mondo della finanza, quindi, come dire, il paragone con il calcio era calzava perfettamente. Chi era il portiere della tua nazionale? Io l'avevo messo Geronzi. Cesare Geronzi. Perché nessuno era mai riuscito a fargli gol. Poi invece, Capitalia, Mediobanca, Generali, clamorosamente uscito di scena qualche mese fa. Esatto, infatti il gol sembra che gliel'abbiano fatto, e forse è questo che ha predetto. Infatti la nazionale italiana di calcio è andata male ai mondiali. Non diciamo allora gli altri componenti della squadra che c'erano. Venite a leggerlo. Esattamente, infatti. Allora ascoltiamo l'intervista invece adesso a Fabio Cerchiai, che io conoscevo appunto prevalentemente per la sua attività di presidente dell'ANIA, l'associazione delle imprese di assicurazione italiane, anche ai vertici invece di Atlantia. Sentiamo cosa ha raccontato Giovanni Verni. Siamo arrivati al momento topico di questa intervista, sei veramente qualcuno. Che è la fine? Guarda, manca veramente poco, 10 minuti e ti liberiamo. È la prova del CEO, sai che c'è la prova del cuoco e noi abbiamo istituito la prova del CEO. La prova del CEO appunto consiste in questo, tu sei destro o mancino? Destro. Destro, no, ce lo immaginavamo perché infatti sicuramente... uno che lavora con le assicurazioni destrezza. Non può essere un sinistro assolutamente no. Quindi, visto che voi volete parlate di sicurezza stradale, io voglio vedere se tu sei ferrato in materia. Allora Fabio, dunque, cos'è un tornante? A, participio di tornado. B, un parente meridionale nelle vacanze di Natale. C, una simpatica curva di montagna riconoscibile solitamente da una corriera incastrata. Ma questa è una domanda difficile. Infatti non noi... ce l'hai la domanda di riserva che sia un po' impegnativa? Ce l'ho. Vuoi che ti faccia una domanda di riserva? Questa è imbarazzante. Non sai cosa rispondere? Tira a caso, dai. Tiro a caso? Dai, tira a caso. Una curva di montagna? Una curva di montagna, simpatica però. Simpatica? Se la fai piano, rispettando le regole, decelerando prima di arrivare in curva. Con la cintura restando con la cintura allacciata, scalando restando la nella tua corsia di marcia. Vabbè. Se no è antipaticissima. Se no è veramente antipatica. Poi, in un incrocio, se il vigile ha le braccia distese orizzontalmente, significa A, che gli hanno sparato. B, scambiamoci un segno di pace. C, ha appena rivisto dopo anni la fidanzata con uno e sta pensando, ma come hai fatto a metterti con uno così? D, non so perché mi hanno messo qui, il semaforo faceva meno traffico di me. Allora. D. Perché in genere sti vigili sono un po' rallentano il traffico. Sì, quando c'è l'incrocio il vigile. Sì, l'incrocio. Si sa che. D. D. Quando si dà la precedenza? A, quando si contra una bella gnocca. B, quando uno con gentilezza te la chiede armato. C, quando vedi un segnale a forma di triangolo rovesciato con dentro la scritta Dio c'è. Devo dire la verità che la prima mi tenta. E quindi? Però rispondo la terza. Sono qua io, perché vedo che... Gianni Gruber, qui com'è? Quindi la terza, Dio c'è. Allora, devo dire che senza nulla togliere agli altri, Fabio Cerchiari secondo me è stato il più simpatico di tutti in assoluto, lo è anche nella vita, ma anche noi lo conosciamo di Salvadanaio molto bene, e insomma ha questi personaggi, a volte sono anche, hanno dei tratti umoristici, che insomma non potranno sempre parlare di finanza, d'altronde dalla mattina alla sera. Gianfranco, che dici? Assolutamente no, oltretutto l'intervista l'ha fatta con l'occhiale di Johnny, del personaggio di Johnny Grove, completa, tanto alla fine era grovizzato completamente, grovizzato, non si toglieva più, teneva sempre su lui. Li avete rovinati insomma dopo queste interviste. Devo dire che tutti si sono messi gli occhiali di Johnny Grove, a chi l'aveva voluti vedere prima di metterseli, chi no, però tutti l'hanno fatto, e hanno, alla fine dell'intervista tutti dovevano dichiarare ti stimo azionisti, insomma, con la voce di Johnny Grove. E insomma un'esperienza molto divertente che prosegue, perché come ci ha raccontato Gianfranco, sì, Caradonna, ci saranno anche altre interviste che verranno pubblicate in questi giorni, va in rete quella di Alessandro Benetton, poi ci saranno appunto, lo dicevamo all'inizio, Franco Moscetti, l'amministratore delegato di Amplifon, e Franco Boldione appunto di BasicNet. Sul vostro sito ci sono anche gli assi di picche, cosa sono, Gianfranco? Mi fai morire, perché ogni domanda che ti faccio ti viene da ridere, quindi da voi sarà un ridere dalla mattina alla sera. Ma è nella mia natura ridere. Sì, sono degli articoli in cui si fa analisi, non è sui bilanci, ma sul comportamento dell'azienda, per cui, della società, per cui c'è stato qualcosa che ha fatto, per cui non è proprio un'analisi di bilancio, mentre gli articoli normali sono proprio analisi, gli assi di picche sono degli articoli fra lo serio e il faceto. Perché l'asse di picche a volte è, non so se è un colpo di scena, come lo possiamo definire, quindi qualche azienda... No, sì, è un, tipo... Cioè meno del 2 di picche, insomma, l'asso è proprio cali l'asso di picche, cioè nel senso punti forti, fai vedere che è una notizia che comunque va letta, anche se non è analisi di bilancio. Qual è l'ultima pubblicata interessante, te la ricordi? No, adesso un attimo, dobbiamo aprire il sito, non abbiamo il computer davanti a noi, poi magari se riesco vado a vedere. Vai. Invece le mine vaganti cosa sono? Mine vaganti sono delle notizie anche qui piccanti sulla società, perché un commento piccantino, cattivello magari anche a volte, sulla società per qualcosa che ha fatto, che ha detto, o un articolo, o su un personaggio che ha fatto una dichiarazione e viene letta in un modo un po' diverso. Dove le andate a cercare queste notizie? Lo so che non si svelano i trucchi del mestiere, perché anche noi facciamo i giornalisti, quindi è chiaro, abbiamo delle relazioni con le persone che ci passano le notizie, qualche volta non tanto noi di Salvadanaio che abbiamo una trasmissione di servizio, però insomma anche nel mondo della finanza, per avere la prima pagina dei quotidiani è chiaro che ci si poggia soprattutto sulle relazioni personali. Sì, ci puoi svelare qualche cosa? Beh, devo dire che appunto, essendo ormai più di 20 anni, veterani, devo dire il nostro circuito di chiamiamoli informatori è abbastanza... No, qualche volta poi diciamolo che ci vengono anche a cercare per divulgare certe notizie, ormai si crea anche una rete di rapporti di grande solidarietà anche da questo punto di vista. Assolutamente. C'è anche la sezione arte e cultura però. Sì, sì, no, perché comunque noi ci rivolgiamo, una volta che uno entra nel nostro sito, comunque può trovare commenti su libri, su spettacoli di teatro, per cui un portale di finanza, però insomma che vada a tutti gli aspetti della vita di una persona. Senti, naturalmente devo farti anche un'ultima domanda seria, perché dimmi, abbiamo fatto i comici fino a questo momento, perché anch'io se mi ci metto non sono niente male. Come lo vedi questo momento di mercato? Parliamo di borsa italiana e vediamo appunto che molte aziende tentano di quotarsi e non ce la fanno, ci ripensano all'ultimo momento, vendono le loro quote a fondi di investimento stranieri, insomma questo è un buon non è sicuramente un buon segnale per la borsa italiana, che non riesce a decollare. No, decisamente non è una buona. Adesso chiamo mio fratello serio. Così sì, esatto, dai, trasformati in quello serio. Okay. No, non è sicuramente un buon momento per la borsa italiana. Che le quotazioni non si riescano a fare, anche se per motivi diversi, comunque non è un buon segnale. Io sono un ottimista, per cui bisogna aver fiducia, sperare in un momento migliore. Però ad oggi anche l'andamento dei titoli non è proprio dei migliori, bisogna tenere... E resistere. Senti, un'ultima domanda. Allora, visto che voi andate a spulciare le società e chiaramente leggete i bilanci, andate agli incontri con la comunità, con le comunità, quelli che loro organizzano appunto con le comunità finanziarie, con gli analisti, qual è la società che meglio si comporta in termini di comunicazione, quella dalla quale invece hai avuto una certa delusione che non ti è piaciuta molto? Facciamo nomi e cognomi senza alcun problema. Ma guarda, devo dire, chi per esempio è molto attento alla comunicazione, che sembra strano visto le origini, è il gruppo Italcementi. Che sono di Bergamo, per cui uno penserebbe che sono molto molto più timidi e riservati, invece no, devo disponibili. Dire sono molto disponibili. Non ti è piaciuto per niente? Non si può dire, ti metti in difficoltà. Lasciamo questa suspense ai nostri ascoltatori. Andate a guardare sul sito, magari c'è qualche mina vagante su questa azienda. Grazie a Gianfranco Caradonna, www.societaquotate.it. Gianfranco, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Spero di risentirti presto, di averti presto con noi. Intanto Salvadanaio termina qui. Grazie a Marco Lombardi per la collaborazione in redazione, Valeria Bernardi in assistenza tecnica. A domani.